Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Ed ecco un altro problema per me. Perché? Perché davvero vi chiamo signori? Perché mi rivolgo a voi come se davvero mi rivolgessi a lettori. Confessioni come quelle che ho l'intenzione di cominciare ad esporre non si stampano e non si danno da leggere agli altri. Perlomeno io non ho abbastanza fermezza, né stimo necessario averla. Ma vedete, mi è venuta in testa una fantasia e a qualunque costo la voglio tradurre in atto. Ecco di che cosa si tratta. Ci sono nei ricordi di ogni uomo certe cose che egli non rivela a tutti, ma forse solamente agli amici. Ci sono anche certe cose che egli non rivelerebbe nemmeno agli amici, ma forse solamente a se stesso. E anche questo in segreto. Ma ce ne sono infine anche di quelle che l'uomo teme di rivelare perfino a se stesso. E di queste cose in ogni uomo per bene se ne ammucchiano pur sempre abbastanza. Cioè si può dire perfino così: quanto più è un uomo per bene, tante più ha. Perlomeno anch'io, solo di recente, mi sono deciso a rammentare talune mie passate avventure, mentre finora le avevo sempre lasciate da parte, perfino con una certa inquietudine. Ora poi, che non soltanto le rammento, ma mi sono perfino deciso a trascriverle, ora, appunto, voglio sperimentare se almeno con se stessi si può essere perfettamente sinceri e non temere tutta la verità. Debbo notare, in proposito, come Heine affermi che le autobiografie fedeli sono quasi impossibili e che una persona sul proprio conto dice sicuramente delle cose false. Secondo la sua opinione, Rousseau, per esempio, si è calunniato nella sua confessione e si è calunniato perfino premeditatamente, per vanità. Sono sicuro che Heine ha ragione. Capisco benissimo come a volte ci si possano, unicamente per pura vanità, addossare interi delitti, e anzi intuisco benissimo di che genere possa essere questa vanità. Ma Heine giudicava a questo modo la persona che si confessava in pubblico. Io, invece, scrivo per me solo e dichiaro una volta per sempre che, anche se scrivo come rivolgendomi a dei lettori, è unicamente e soltanto per mostra, perché così mi è più facile scrivere. Qui è una questione di forma. Unicamente vuota forma. Quanto ai lettori non ne avrò mai. L'ho già dichiarato. Io non voglio pigliarmi suggezione di nulla nel redigere le mie memorie. Non vi introdurrò né ordine né sistema. Quello che mi verrà in mente lo segnerò. Ecco. Ecco, per esempio, potreste prendermi in parola e domandarmi: se davvero non contate su dei lettori, perché dunque ora fate di questi patti con voi stesso e per di più sulla carta, cioè di non introdurre né ordine né sistema, di segnare quello che vi verrà in mente, eccetera, eccetera? A che scopo date spiegazioni? A che scopo vi scusate? Ma andate un po'. Rispondo io. Qui del resto c'è tutta una psicologia. Forse c'è anche che io sono semplicemente un vile. E forse c'è anche che io immagino mi immagino un pubblico davanti apposta per comportarmi con decenza mentre scriverò. Di ragioni ce ne possono essere mille, ma ecco quel che c'è ancora. Perché come mai propriamente voglio scrivere? Se non è per il pubblico, si potrebbe infatti rammentare tutto anche così, mentalmente, senza mettere in carta. Proprio così. Ma sulla carta riuscirà una cosa, in certo modo più solenne. In questo c'è qualcosa di suggestivo, sarà maggiore il controllo su me stesso. Lo stile si eleverà. Per di più, forse, dallo scrivere otterrò effettivamente un sollievo. Quest'oggi, per esempio, mi opprime in modo speciale un lontano ricordo. Mi è tornato chiaramente alla memoria già qualche giorno fa. E da allora è rimasto con me, come un fastidioso motivo musicale che non vuole lasciarci in pace. Eppure bisogna liberarsene. Di questi ricordi ne ho centinaia, ma di tempo in tempo da un centinaio ne emerge uno qualunque e mi opprime, chissà perché. Credo che segnandomelo se ne andrà. E perché non provare? Infine, io mi annoio e non faccio mai nulla. Scrivere è veramente come un lavoro. Dicono che col lavoro l'uomo diventa buono e onesto. Beh, ecco un'occasione almeno. Oggi viene giù la neve, quasi bagnata, gialla, torbida. Anche ieri nevicava, anche nei giorni scorsi nevicava. Mi sembra che proprio per via della neve bagnata mi sono rammentata la storia che ora non vuole lasciarmi in pace. Sicché questo sia pure un racconto a proposito della neve bagnata. A quel tempo non avevo che 24 anni. La mia vita era già allora tetra, disordinata e solitaria, fino alla selvatichezza. Non frequentavo nessuno ed evitavo perfino di parlare, e sempre più mi ficcavo nel mio angolo. Nel luogo dove ero impiegato, in ufficio, mi sforzavo perfino di non guardare nessuno, e notavo benissimo che i miei colleghi non solo mi ritenevano un originale, ma avevo sempre anche questa impressione, pareva che mi considerassero con un certo quale disgusto. Mi veniva in mente di chiedermi come mai a nessuno, tranne che a me, sembrava d'essere guardato con disgusto. Uno dei nostri impiegati d'ufficio aveva una faccia ripugnante e arcibotterata, e perfino si sarebbe detto brigantesca. Mi sembrava che io, con una faccia così indecente, non avrei osato nemmeno gettare uno sguardo su nessuno. Un altro aveva l'uniforme di servizio talmente frusta che vicino a lui si sentiva addirittura un puzzo. Eppure, Non uno di questi signori si vergognava, né per il vestito, né per la faccia, né moralmente in qualche maniera. Né l'uno né l'altro immaginavano che li guardassero con disgusto, e anche se lo avessero immaginato, per loro sarebbe stato lo stesso, purché i superiori non avessero creduto di vederci qualcosa. Ora, mi è perfettamente chiaro che anch'io, a causa della mia illimitata vanità e quindi anche della mia severità con me stesso, mi guardavo spessissimo con una furiosa scontentezza che giungeva al disgusto, e per questo attribuivo mentalmente a ciascuno il mio modo di vedere. Per esempio, odiavo il mio viso, lo giudicavo ributtante e sospettavo perfino che avesse una qualche espressione vile, e perciò ogni volta, comparendo in ufficio, mi sforzavo tormentosamente di comportarmi nel modo più indipendente, perché non mi sospettassero di viltà, e di esprimere col viso quanta più nobiltà era possibile. Sia pure un viso non bello, pensavo io, ma in cambio sarà nobile, espressivo e soprattutto straordinariamente intelligente. Ma sapevo di sicuro e dolorosamente che tutte queste perfezioni non avrei mai potuto esprimerle col mio viso. Ma la cosa più orribile fra tutte era che lo giudicavo proprio sciocco. Io invece mi sarei appagato pienamente dell'intelligenza, al punto anzi che avrei accettato perfino un'espressione vile, purché il mio viso lo giudicassero nello stesso tempo straordinariamente intelligente. Tutti i nostri impiegati d'ufficio, io, si intende, li odiavo dal primo all'ultimo e li disprezzavo tutti, e insieme pareva che li temessi. Accadeva che tutto a un tratto li collocassi perfino più in alto di me. Questo allora mi accadeva, non so come, tutta un tratto. Ora li disprezzavo, ora li ponevo più in alto di me. Un uomo evoluto e per bene non può essere vanitoso senza un'illimitata severità con se stesso e senza disprezzarsi fino all'odio in certi momenti. Ma che lo disprezzassi o lo ponessi più in alto di me, quasi davanti ad ogni persona che incontravo, abbassavo gli occhi. Facevo perfino degli esperimenti. Avrei sopportato lo sguardo almeno del tale su di me e sempre lo abbassavo io per primo. Questo mi tormentava fino al furore. Temevo anche, fino a farne una malattia, d'essere ridicolo, e perciò servilmente adoravo l'uso comune in tutto ciò che riguardava l'aspetto esteriore. Mi inoltravo con amore nella carreggiata comune e dentro di me temevo con tutta l'anima ogni eccentricità. Ma come potevo reggere? Ero morbosamente voluto, come ha da essere voluto un uomo del nostro tempo. Loro, invece, erano tutti ottusi e simili l'un all'altro, come le pecore d'un gregge. Forse a me solo, in tutto l'ufficio, pareva continuamente di essere un vigliacco e uno schiavo, e mi pareva così precisamente perché ero evoluto. Ma non mi pareva soltanto, bensì era effettivamente così in realtà. Ero un vigliacco e uno schiavo. Dico questo senza alcuna suggezione. Ogni uomo per bene del nostro tempo è e deve essere un vigliacco e uno schiavo. È il suo stato normale. Ne sono profondamente convinto. È fatto così, è congegnato per quello. E non solo nel nostro tempo per qualche casuale circostanza, ma in generale, in tutti i tempi, l'uomo per bene deve essere un vigliacco e uno schiavo. Questa è la legge naturale di tutti gli uomini per bene della terra. Anche se a qualcuno di loro accade di fare il bravo di fronte a qualcosa, che non se ne consoli e non se ne infatui, tanto dinanzi ad altro avrà la tremarella. Tale è l'unica e sempiterna via d'uscita. Fanno i bravi soltanto gli asini e i loro ibridi, ma anche quelli solamente fino a un certo punto, fino a un certo muro. Di rivolgere l'attenzione ad essi non vale neppure la pena, perché non significano proprio niente. Mi tormentava allora anche un'altra circostanza, precisamente che nessuno mi somigliasse e di non somigliare a nessuno. Io sono uno solo. E loro sono tutti, pensavo, e mi facevo pensieroso. Da questo si vede che ero ancora proprio un ragazzino. Accadevano anche dei casi opposti, infatti a volte, come mi riusciva disgustoso andare in ufficio, si giungeva al punto che molte volte tornavo malato dall'impiego. Ma tutt'a un tratto, di punto in bianco, subentra una fase di scetticismo ed indifferenza. In me tutto avveniva per fasi, e rido io stesso della mia intolleranza e schizzinosità. Mi rimprovero da me di romanticismo. Ora, non voglio parlare con nessuno, e ora arrivo non solo a mettermi a parlare, ma mi viene anche l'idea di stringere amicizia con loro. Tutta la schizzinosità spariva di colpo, di punto in bianco. Chissà, forse non l'avevo mai avuta, od era affettata, libresca. Finora non ho ancora risolto questo problema. Una volta perfino feci amicizia con loro in tutto e per tutto, e presi a frequentare le loro case, a giocare a preferenza, a bere acquavita, a discorrere di promozioni. Ma qui permettetemi di fare una digressione. Fra noi russi, parlando in generale, non ci sono mai stati degli sciocchi romantici astrali alla tedesca e specialmente alla francese, sui quali nulla agisce, anche se la terra scricchiola loro sotto i piedi, anche se tutta la Francia perisce sulle barricate. Quelli sono sempre gli stessi, non cambiano nemmeno per convenienza. E canteranno sempre le loro canzoni astrali, per così dire, fino alla tomba della vita loro. Perché? Perché sono degli imbecilli. Fra noi, invece, in terra russa, non ci sono imbecilli. È noto. Perciò, appunto, ci distinguiamo dalle altre terre straniere. Per conseguenza, anche di nature astrali da noi allo stato puro non esistono. Non furono se non i nostri pubblicisti e critici positivi di quel tempo, che invaghendosi allora dei Kostanzhoglu e degli zii Piotr Ivanovich, e stupidamente prendendoli per il nostro ideale, calunniavano i nostri romantici, ritenendoli astrali come quelli che ci sono in Germania o in Francia. Al contrario, le proprietà del romantico nostro sono perfettamente e assolutamente opposte alle qualità di quello astrale europeo. E non c'è metro europeo che faccia il caso qui, Permettetemi poi di usare questa parola romantico, parola antica, rispettabile, benemerita e a tutti nota. Le proprietà del romantico nostro sono di capire tutto, di vedere tutto e spesso di vedere con una chiarezza maggiore di quella con cui vedono le nostre menti più positive, di non far compromessi con nessuno e con nulla, ma nello stesso tempo di non disdegnare nulla, di girare al largo di tutto, di cedere a tutto con politica, di non perdere mai di vista il fine utile. Pratico, qualche piccolo alloggio governativo, qualche piccola pensione, qualche piccolo ordine cavalleresco. Guardare a questo fine attraverso tutti gli entusiasmi e i volumetti di versi lirici e nello stesso tempo di conservare inalterabilmente in sé, fino alla tomba della vita sua, il bello e il sublime. E già che c'è, di conservare benissimo anche se stesso, addirittura nella bambagia, come un oggettino prezioso, non fosse che in pro, per esempio, di quello stesso bello e sublime.